Se i giorni diventano polvere, se il vento non vuole demordere, saremo più bravi a rincorrere il tempo che resta da prendere. Se i sogni diventano cenere, se gli occhi non sanno rispondere, saremo più bravi a non perdere l'abitudine di respirare. Se la terra comincia a tremare come un fulmine di notte, quando meno te lo aspetti, non pensare che è la fine. Tu parla, parlami di te. Questa volta sarò forte, guardami tu non distrarti. Parla, parlami di te. E l'aria, aria, tra queste inutili parole vorrei solo immaginare di ridarti nuova aria, aria, aria, che ci fa vivere e tremare come corse lungo mare. Ti ricordi quelle volte che sono caduto e mi hai tirato su tu solamente? Non ho mai pianto davanti a nessuno, solo con te. L'aria, aria, aria, tra mille vite immaginarie sceglierei di rimanere qui solamente. Lo sai che dentro una canzone facciamo un po' come ci pare. Tu dammi una destinazione, se vuoi ti ci posso portare. Potrai anche allungare i giorni e piegare il tempo all'infinito e trascorrere dentro i secondi le vite che avresti voluto. Come un fulmine di notte, quando meno te lo aspetti, non pensare che è la fine. Tu parla, parlami di te. Questa volta sarò forte, guardami tu non distrarti. Parla, parlami di te. E l'aria, aria, aria, tra queste inutili parole vorrei solo immaginare di ridarti nuova aria, aria, aria, che ci fa vivere e tremare come corse lungo mare. Ti ricordi quelle volte che sono caduto e mi hai tirato su tu solamente? Non ho mai pianto davanti a nessuno, solo con te. L'aria, aria, aria, tra mille vite immaginarie sceglierei di rimanere qui solamente. Solamente. Solamente. Solamente. Aria, aria, aria. Vorrei darti nuova lungo mare. Ti ricordi quelle volte che sono caduto e mi hai tirato su tu solamente? Non ho mai pianto davanti a nessuno, solo con te. L'aria, aria, aria, tra mille vite immaginarie sceglierei di rimanere qui solamente.